Siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi, tra poco i vostri messaggi, tra poco il via all'interazione, ancora i contatti 335-100-77-77, la linea SMS, edo@radiorockfm.com, tra l'altro per coloro i quali possiedono il pacchetto Sky hanno la possibilità, oltre che di ascoltarci attraverso lo streaming via satellite che potete trovare sulla gestione altri canali di Sky, vi ricordo che giovedì 8 di maggio saremo all'interno del programma Database di Rock TV, tutto lo staff di Rock FM, almeno tutti quelli che ce la faranno esserci, insomma saremo lì per salutare, ringraziare tutti voi e per insomma fare un saluto video, cosa che ovviamente non ci appartiene, però nel senso lo faremo lo stesso all'interno di Rock TV e un grazie naturalmente va allo staff della televisione Rock. Dig in the Sky. Loro sono i Pink Floyd, siete su Rock FM, Edo Chiocciola, rockfamily.it, 335-100-77-77. Tra l'altro vi ricordo che potete anche interagire all'interno della famiglia Rock, ossia rockfamily.it, il nostro sito, il nostro vero e proprio punto di incontro sulla rete. Ora un Trisdassi. As you brush your shoes, you stand before your mirror, and you comb your hair, grab your coat and hat, and you walk the streets trying to remember, baby, all those wild nights breeze through your mind, and

Oh yes. E vai di cimballetto. Sono i Babies, la canzone era Every Time I Think of You, siete su Rock FM. Tra l'altro vi ricordo ancora una volta l'appuntamento che ci vedrà protagonisti invece con la Rock FM Stars Band dal vivo il 9 di maggio, venerdì 9 saremo sul palco di Piazza Liberty a Milano. Snake. Questa è Here I Go Again, siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi. Allora, quello che in realtà non ho ancora annunciato in onda è il grande ospite che avrò tra poco, almeno dal punto di vista telefonico. Infatti entreremo a breve in contatto con Dan McCafferty, per intenderci il cantante storico dei Nazareth, che arrivano alla pubblicazione di un loro nuovo disco, ci sarà la tournée del 40° anniversario di carriera, quindi avremo modo di parlare di qualche cosa, tutto questo tra poco, quindi rimanete sempre lì, tra poco naturalmente dopo l'intervista verrò a rispondere anche ai vostri messaggi, vedo che ce n'è già diversi, quindi 335-100-7777, il numero sms, oppure edo@rockfamily.it. Dopo la pubblicità cominciamo già a sentirci un po' di Nazareth, quelli vecchi, poi sentiamo quelli nuovi, poi sentiamo la voce direttamente del cantante, tra poco qui da Rock FM e dalla Rock.